Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, buongiorno da Daniele Biacchesi, questa Italia in controluce, la seconda edizione, lo ricordiamo, il programma di approfondimento di Radio 24 che trasmette ogni giorno reportage ed inchieste. 10 anni fa la strage di Linatera, l'8 ottobre 2001. Oggi per ricordare le decine di morti e reportage di Cristina Carpinelli. Pesapane di cognome, Maurizio era il Pesa. Molto spesso durante una cena, perché lui amava tantissimo tutte queste riunioni conviviali con gli amici ed era golosissimo, ricordano il Pesa questo non l'avrebbe mangiato, il Pesa questo l'avrebbe voluto, ti ricordi il Pesa che? Cioè, si vede che quando parlano lo ricordano con un sorriso, non lo ricordano con angoscia. Secondo me questo è positivo, vuol dire che ha lasciato tanto di positivo nella sua vita. È incredibile la bellezza di quello che riesce a fare chi ha amato o ama qualcuno. Forse questa è la frase che più di tutte racconta la storia di oggi. E infatti partiamo da qui, dall'amore e dal dolore dei familiari delle vittime dell'incidente di Linate, avvenuto l'8 ottobre 2001. Adele Scarani nell'incidente perse il marito Maurizio Pesapane, che aveva 49 anni e lasciò 3 figli. Il più piccolo aveva 13 anni, la seconda ne aveva 17, andava per i 18. E la più grande ne aveva 20. Nel giro di poche ore, anche meno di poche ore, mi sono resa conto che dovevo diventare padre e madre, dovevo prendere in mano la situazione. Mi sono detta ok, ci mettiamo una maschera, ma proprio me lo sono detta io, mi metto una maschera, mi metto uno scafandro, ma qui bisogna andare avanti. Mi sono visti 3 bambini, 3 ragazzi davanti con questi occhi disperati, stravolti ovviamente perché avevano perso il loro adorato papà. Adele Scarani è la vicepresidente del comitato 8 ottobre per non dimenticare. Si tratta di un comitato che in questi 10 anni ha denunciato, informato, aperto commissioni, tutto per garantire la sicurezza di chi vola. Si sono messi in contatto con me, Paolo Pettinaroli e le persone che avevano deciso di organizzare questo comitato. Ho capito che dovevo dare una mano anche agli altri che avevano bisogno di un aiuto, che avevano bisogno di tirarsi fuori, e noi dovevamo vivere, e i figli, i bambini, perché c'erano anche un sacco di bambini piccoli, dovevano crescere comunque nel miglior modo possibile. Già erano mutilati, perché io ritengo che questi ragazzini privati anzitempo dell'affetto paterno, della vicinanza di un padre, sono cresciuti mutilati rispetto ai loro compagni, ai loro amici, perché i loro amici hanno una famiglia intera. Se tutto avesse funzionato a Linate quella mattina, quei visi che ora vediamo fotografati sul sito del comitato sarebbero in mezzo a noi per strada. Ed è qui che sta il dolore e la rabbia più forte. Quest'anno gli anni sono 10 e a sentire i familiari, quella mattina in cui a Linate in un incidente aereo morirono 118 persone, sembra ieri. Francesca Rossella aveva allora 22 anni, il padre Osvaldo era a bordo dell'aereo. Sicuramente quando penso al modo assurdo in cui è morto, questa rabbia si fa sentire ancora, perché comunque è un modo assurdo di morire a 54 anni. Lei quanti anni aveva? Io avevo 22 anni, con mio papà avevo veramente un legame particolare, eravamo veramente legatissimi, mi è proprio mancata tanto la figura paterna in questi anni, il giorno della laurea, il giorno del mio matrimonio, il giorno che sono diventata mamma, e ho proprio sempre sentito la sua presenza. Però indubbiamente la presenza fisica mi è mancata veramente tanto. Sono tanti i segni di affetto e di impegno che ai familiari delle vittime dell'incidente di Linate arrivano. Giulio Cavalli è autore di un monologo teatrale dal titolo Linate, 8 ottobre. Questo è un estratto della prima andata in scena nel 2006. E poi c'è il radar. Come nelle abitudini, in mentali, nell'immaginario, nelle favole, in piscina c'è il trampolino, in stazione l'orologio, all'aeroporto il radar all'aeroporto. A Linate, radar di terra, no, non c'è. C'è l'orologio, non pervenuti, radar di terra e trampolino. Avete mai provato a rullare, dico, nella nebbia che martella in testa, nella nebbia che rincula in coda? Pensavamo di invecchiare con voi, guardando i nostri figli diventare grandi. gli aerei volano malvolentieri senza di voi. Ci mancate. Firmate i vostri padri, le vostre madri, i vostri figli, le vostre mogli. Sono le 8:10 dell'8 ottobre. La nebbia è fitta. La visibilità è ridotta a meno di 200 metri. Un MD-87 della compagnia aerea SAS in fase di decollo dall'aeroporto entra in collisione con un Cessna, entrato erroneamente in pista. L'MD-87 colpito va a schiantarsi contro l'edificio per lo smistamento bagagli. L'urto e l'incendio non lasciano scampo agli occupanti dei due aerei, né a 4 addetti allo smistamento bagagli al lavoro nel reparto. Un quinto addetto si salva, unico sopravvissuto al disastro. Si chiama Pasquale Padovano, è ustionato sulla quasi totalità del corpo. I due aerei si trovano dunque sulla stessa pista, alla stessa identica ora e nello stesso istante ricevono l'ok al decollo. Cosa è potuto accadere per generare un tale grossolano e irreparabile errore? La lista la pubblicano online i familiari delle vittime. La stessa lista di carenze la verificheranno anche i magistrati che indagano. Quella mattina a Linate non era operativo il radar per la rilevazione dei movimenti degli aeromobili al suolo. La segnaletica di circolazione sul raccordo di rullaggio era piena di lacune e non corrispondeva alla mappa del pilota del Cessna. Mancava un sistema di allarme per evitare l'invasione della pista in uso. Non fu osservato il regolamento internazionale prescritto in caso di nebbia per gli aeroporti senza sistemi antinebbia. Il traffico era intenso anche il giorno prima, con la medesima visibilità. Quattro punti al cui interno si inseriscono una miriade di sfumature che a leggerle oggi fanno paura. E il tema non si risolve neppure dopo una tale tragedia. Un giro virtuale sui siti specializzati e il mondo ti si apre davanti. C'è un forum, ad esempio, di controllori di volo italiani online. Ecco alcuni post. Il primo dice: se qualcuno finisce in TV dicendo che sugli schermi radar dei controllori di volo italiani ci sono tracce fantasma e false allarmi in continuazione, pensi che non succederebbe qualcosa? Non è un problema che impatta il cittadino medio quello della sicurezza dei voli, secondo te? E l'altro risponde: se un radarista testimoniasse davanti a una telecamera una cosa così, sarei curioso di sentire l'ufficio stampa di ENAV. Dopo un lungo iter, i giudici assolvono in appello il direttore dell'aeroporto di Linate, Vincenzo Fusco, e il responsabile del sistema aeroportuale milanese, Francesco Federico. In primo grado, Fusco e Federico erano stati condannati a 8 anni e 6 anni e mezzo. Chi li ha uccisi allora, i passeggeri dei due aeromobili? Si domanda Paolo Pettinaroli, presidente del comitato dei familiari. Dico io, ma questi qui chi è che li ha uccisi? Come ha fatto a morire? Se nessuna colpa. I giudici hanno invece condannato l'ex amministratore delegato di ENAV, Sandro Gualano, a 6 anni e 6 mesi. Francesca Rossello, figlia di Osvaldo, morto nell'incidente aereo di Linate, la pensa così in merito alla sentenza. Persone che comunque erano colpevoli e che dovevano fare qualcosa per evitare che questo incidente accadesse, alla fine non hanno, secondo me, non hanno avuto la pena che si meritavano, soprattutto perché molte persone non sono state rimosse dai loro incarichi, molte persone continuano a ricoprire ruoli importanti. Secondo me non è giusto, perché nel mondo del lavoro se uno sbaglia deve pagare, se io nel mio lavoro sbaglio, pago. Nonostante tutte le amarezze, il comitato 8 ottobre per non dimenticare prosegue anno dopo anno, giorno dopo giorno, il suo inesorabile e importantissimo lavoro, come ci racconta Paolo Pettinaroli, presidente del comitato dei familiari. L'intervista è di Dario Ricci. La tragedia la viviamo ogni anno quando caparbiamente vogliamo fare questo memorial, anche se ci distrugge a livello morale. È una cosa che dobbiamo farla, perché dobbiamo fare in modo che nessuno dimentichi quanto è avvenuto. L'ultimo impegno con gli enti internazionali è la creazione di una cassa assicurativa mondiale, alimentata con una piccola percentuale del costo d'ogni biglietto, che serva per dare assistenza economica alle famiglie delle vittime entro i primi 30 giorni dagli incidenti, quando i conti correnti di chi è morto sono bloccati, i rimborsi assicurativi ancora non sono arrivati e chi resta si trova in difficoltà immediata. Era Italia in controluce, vi ricordo siamo su Facebook, abbiamo la pagina, potete anche richiedere l'iscrizione al gruppo, si chiama Radio 24 Italia in controluce, siamo anche su Twitter e rintracciabili via mail controluceradio24.it. Torniamo domani alle 6.30 con la pillola di Italia in controluce.